Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17:08 minuti. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666, il numero per i vostri sms. I temi di cui parleremo oggi, uno ve l'ha già annunciato poco fa il giornale radio, ospiteremo tra poco il ministro del welfare, il ministro del lavoro, Elsa Fornero, e parleremo tra le altre cose anche dei provvedimenti che ha preso il governo in questo senso. C'è una parte di cose che sono contenute all'interno dei provvedimenti sulle start-up che riguardano il lavoro, e poi c'è invece un provvedimento del quale è stata data notizia oggi e che riguarda degli sgravi fiscali, degli incentivi per l'assunzione di giovani e donne, o anche per la trasformazione in contratti a tempo indeterminato contratti a tempo determinato invece appunto di giovani e donne. Parleremo di questo e parleremo anche dell'agenda digitale in genere. Vedremo di fare un commento dei provvedimenti presi ieri dal governo, dei provvedimenti comunque annunciati ieri dall'esecutivo. Parleremo naturalmente di mercati. È una giornata decisamente brillante, confortata da un dato positivo per quanto riguarda la disoccupazione americana, che è scesa al 7,8%, non scendeva a questi livelli da circa 4 anni, 44 mesi comunque. E poi ci sono le questioni, le vicende solite purtroppo, che sono quella della Grecia con il premier Samaras che dice che ci sono soldi solamente fino a novembre, quindi insomma chi deve dare aiuti internazionali si deve sbrigare. E poi la questione delle regioni, non vi preoccupate, non la lasciamo da parte, perché ieri il governo ha lavorato anche su questo, ha varato un decreto anche abbastanza potente. Sono state molto dure le parole del presidente del Consiglio Mario Monti, mentre insomma continuano a circolare notizie e a fuggire informazioni sulle spese appunto delle regioni e degli enti locali, perché tra l'altro il decreto non riguarda solamente le regioni. Tutto questo più avanti, le notizie in breve di oggi, come sempre in apertura. Naturalmente vi ho detto che le borse sono brillanti, però non vi ho detto quanto. Il FTSE MIB guadagna il 2,10%, il FTSE Share il 2,01%, a Parigi il CAC 40 l'1,38%, a Londra il FTSE 100 lo 0,64%, Francoforte l'1,12%, l'euro che quota 1,3052 contro dollaro. In rialzo l'oro oggi a 1795,69 dollari l'oncia, il nuovo record da 11 mesi. Un'apertura invece in lieve calo per il petrolio. Adesso il WTI, ossia quello quotato a New York con scadenza novembre, cede lo 0,09%, quindi praticamente in pari. Il Brent, sempre con consegna a novembre, in calo dello 0,6%. Il dato sulla disoccupazione americana era all'8,1% in agosto, è scesa al 7,8%. L'economia ha creato 114.000 posti di lavoro, ma Romney attacca, dice che i dati sono falsati. Non sono quelli di una vera ripresa economica, dice lo sfidante di Obama. Il tasso vero di disoccupazione è vicino all'11%. Mentre la Casa Bianca dice che l'economia si sta muovendo nella giusta direzione. La Grecia, come si è detto, Samaras dice abbiamo fondi solo fino a novembre, di questo parleremo dopo le 18, e dice ancora se il mio governo fallisce è il caos. Tra l'altro Angela Merkel sarà ad Atene martedì per incontrarlo. Tra l'altro, storia che arriva dalla Grecia è interessante. Un'azienda locale è riuscita ad ottenere una rateizzazione dei propri debiti di oltre 750.000 euro verso l'Ente Nazionale della Previdenza Sociale, in 4.700 rate mensili, con l'ultima rata in scadenza il 31 marzo del 2404, 160 euro al mese per 391 anni. Fonti europee dicono a proposito della Spagna che una richiesta di salvataggio non è imminente. Madrid con l'Europa sono allo studio alternative agli aiuti, dice il segretario di Stato all'economia Fernando Latorre. Dalle nostre parti le cose vanno abbastanza bene, lo spread BTP Bund scende a 353 punti subito dopo il dato sulla disoccupazione americana. E poi ci sono i dati sulle entrate. Nei primi 8 mesi dell'anno le entrate si sono attestate a 268.736 milioni, con una crescita del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2011. Siamo in piena recessione, eh? Cala il gettito dell'IVA, giù dell'1,3%, risente naturalmente della stagnazione. E continua a crescere tra le imposte indirette il gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, più 24,3%. Scende la spesa per i giochi, tra le entrate il calo è di 624 milioni di euro, un calo del 6,8% complessivo. Tra l'altro la Commissione Finanze della Camera ha dato il suo via libera alla delega fiscale. Il provvedimento arriverà nell'Aula il 10 di ottobre e il governo è stato battuto sull'accorpamento delle agenzie fiscali. Parla il sottosegretario all'economia Vieri Ceriani in Commissione Finanza alla Camera, dice che si potrebbe valutare la possibilità di prevedere la facoltà di anticipare, ve la rileggo perché devo dire che è abbastanza involuta. Allora, si potrebbe valutare la possibilità di prevedere la facoltà di anticipare al 2013 l'attivazione del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Insomma, più dubitativa di così non poteva metterla. Si potrà intervenire, dice anche Vieri Ceriani, sulla disciplina dell'IMU con un provvedimento di legge ordinaria che potrà essere approvato anche prima della fine dell'anno e comunque in tempi rapidi. Altri segnali di recessione, di cattivo andamento dell'economia. I consumi in settembre in calo del 9,6%, i consumi di elettricità, il top dal 2009. Calo che non si riscontrava ad aprile appunto 2009, quando il fabbisogno elettrico scese del 10,5%. Le tariffe continuano la corsa all'aumento. Secondo uno studio di Confesercenti, dal 2007 al 2011 la spesa media mensile è rimasta sostanzialmente costante, ma il peso delle tariffe è cresciuto in 4 anni di uno 0,7% e nei primi 8 mesi del 2012 di un altro 0,7%. Si tratta nel complesso più di un punto percentuale, scrive Confesercenti, è stato assorbito dai rincari delle tariffe sui servizi pubblici locali dall'inizio della crisi economica. Si tratta di circa 8,4 miliardi, in gran parte sottratti ai consumi. A Milano e Lombardia i saldi intanto inizieranno molto prima di Natale, proseguendo una sperimentazione iniziata quest'estate per fronteggiare la crisi dei consumi. Sconti che inizieranno già a Sant'Ambrogio il 7 di dicembre, che già include gli acquisti natalizi. Questo per dare la misura, insomma, di come sentano la crisi anche i commercianti. La Guardia di Finanza, e questa è una notizia curiosa che è arrivata oggi, dice, insomma, ha trovato che c'erano anche boa e pitoni tra i 12 rettili messi a guardia dei registri contabili, con documentazione contabile parallela in un'azienda della Val Belluna operante nel settore della lavorazione dei metalli, oggetto di un controllo fiscale. Naturalmente, come sempre in questi casi, è stato necessario chiedere l'intervento della forestale di Belluno. E ora veniamo al primo argomento di giornata, i primi argomenti di giornata, che sono quelli che riguardano i provvedimenti presi ieri dal governo. Allora, si è detto molto dell'agenda digitale. Nel frattempo voi ci chiedete se avete sentito bene a proposito dell'azienda greca che ha deciso di rateizzare i propri debiti e ottenuto quella rateizzazione di 750.000 euro verso l'Ente Nazionale di Previdenza Sociale. Ebbene sì, sono 4.700 rate mensili, con l'ultima rata in scadenza nel 2404. Questo per quanto riguarda la Grecia. E ci chiedete ancora di ripetere la frase del sottosegretario all'economia Vieri Ceriani, che da alcuni è stata interpretata come un'apertura al calo delle tasse. Beh, rileggiamola. Si potrebbe valutare la possibilità di prevedere la facoltà di anticipare al 2013 l'attivazione del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. E vabbè, abbiamo adesso in questo momento qualche problema a connetterci con il ministro del lavoro, Elsa Fornero, e però veniamo proprio ai provvedimenti presi ieri dal governo. Ci occupiamo innanzitutto di agenda digitale. Saluto Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di strategia politica aziendale all'Università Bocconi di Milano. Buonasera. Buonasera Simone. Allora, che cosa c'è? Moltissima roba oggettivamente dentro questo decreto per l'agenda digitale. Ci sono, ve l'abbiamo raccontato, trovate tantissimo materiale sul Sole 24 Ore anche di oggi e sul sito del Sole 24 Ore, che vi dà, che vi spiega un po' nel dettaglio che cosa succede. C'è la carta d'identità elettronica, c'è il fascicolo sanitario elettronico che sostituirà la cartella clinica, che dovrà poter essere consultato praticamente da tutte le amministrazioni sanitarie, da tutte le regioni. C'è l'arrivo del libro elettronico, tanto per dirne una. Ci sono fondi per la banda larga, 150 milioni di euro. Insomma, altro elemento importante, uno stimolo forte in tutta teoria all'arrivo della moneta elettronica, i fornitori di servizi, i commercianti. E tra fornitori di servizi si intende anche i professionisti, dovranno dotarsi quantomeno di un POS per il Bancomat entro il 1 gennaio del 2014. Vi abbiamo dato un quadro molto generale, appunto con Carlo Alberto Carnevale Maffè vogliamo fare un punto, una sua analisi, avere un quadro di che cosa pensa innanzitutto di questi provvedimenti. Partiamo dalla direzione di questi provvedimenti. Lenzuolata digitale, se posso parafrasare Buon Bersani, che si attendeva da tanti anni e che è comunque una cosa buona. Sia chiaro, voglio dire che questi provvedimenti sono tutte cose utili per il paese. Purtroppo c'è tanta roba buona, ma mancano gli approcci che ci aspettavamo all'agenda digitale, ovvero non semplicemente una conversione di formati dall'analogico al digitale, ma una conversione di processi dall'inefficiente all'efficiente. Certo, si può risparmiare un po' di carta, si può risparmiare un po' di tempo, ma il governo non ci ha detto che risparmieremo lavori inutili o uffici inutili o sportelli inutili. Non ce l'ha detto, è stato un po' reticente in questo. Certo, si creano le premesse perché questo avvenga, ma un caso economico completo il governo non ce l'ha rappresentato. Detto questo, prendiamo quello che passa il convento in questo momento e cerchiamo di farlo bastare. C'è molto da fare anche solo per mettere a frutto questi primi pilastri dell'agenda digitale. Chiaramente, e poi c'è una questione, così come non c'è un piano definito, al momento, insomma, da quello che abbiamo visto, chiaramente, ovviamente adesso noi siamo ancora al comunicato stampa più o meno e a una scarna presentazione che c'è sul sito del governo, oltre che alle parole dette dai ministri in conferenza stampa. Detto ciò, non c'è anche un quadro, non c'è nemmeno un quadro preciso delle risorse, perché appunto queste cose si fanno, però poi per avere il fascicolo sanitario elettronico, per avere le notifiche online degli atti per snellire la giustizia, per avere la carta identità elettronica ti servono anche i server, insomma ci vogliono investimenti. Ci vogliono due cose, Simone, ci vogliono sicuramente degli investimenti in tecnologie, ma fammi dire, questa è la cosa tutto sommato minore, perché oggi si possono comprare tecnologie necessarie a convertire il digitale anche sul cloud, cioè anche in modalità, come dire, a consumo, che non richiedono investimenti in controcapitale. Ciò che invece non c'è è la testa dei burocrati, dei funzionari pubblici, messa, impegnata su questo fronte qua a cambiare. Questo non c'è ed è la comunità più pericolosa, più a rischio. I decreti attuativi, la cultura organizzativa che manca è il vero fattore di rischio. Non si cambiano i processi con un decreto, bisogna cambiare la testa della gente e cambiare il modo di organizzare la pubblica amministrazione e il modo in cui le imprese e i cittadini si interfacciano con la pubblica amministrazione. Naturalmente, e su questo io voglio tornare, quindi chiedo un attimo di attesa sul tema dell'agenda digitale, almeno di questa parte, perché siamo riusciti a raggiungere il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che saluto. Buonasera, Ministro. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, c'è una parte all'interno del decreto sull'agenda digitale che riguarda il lavoro e riguarda le assunzioni dei lavoratori nelle start-up, ma prima la cosa che forse più ci preme è questo decreto interministeriale che lei ha comunicato oggi, che avete approvato, che prevede 235 milioni di incentivi alle imprese per l'occupazione di giovani e donne. Lei dice l'importante è assumere in questo momento, è un aiuto piccolo ma intenso. Che cosa intende, Ministro? Beh, intendo dire che anche se l'ammontare complessivo delle risorse non è particolarmente grande rispetto all'entità del problema, in questo momento, parlo proprio anche di mesi, ci vuole una qualche sferzata, un mercato del lavoro che è particolarmente inerte, anzi che si sta contraendo, come si vede dall'aumento dei disoccupati. Allora, noi avevamo a disposizione per l'occupazione di giovani e di donne, che sono i due segmenti del mercato del lavoro più a rischio, più in sofferenza, avevamo a disposizione 230 milioni risparmiati, diciamo così, dalla riforma del sistema previdenziale, erano stati accantonati esattamente con lo scopo di spenderli a favore dell'occupazione, sono una tantum, non sono una somma che si ripeterà, è qualcosa che proprio in occasione della riforma delle pensioni io avevo chiesto come segno di attenzione. E allora abbiamo dato incentivi. Ovviamente l'incentivo è più grande se l'assunzione è a tempo indeterminato, ma purché le imprese, e anche perché in questo periodo iniziale di applicazione della riforma del mercato del lavoro, molte imprese dicono che la riforma crea dei problemi, lamentano che il lavoro costa troppo. E allora un aiuto di questo tipo può rappresentare esattamente una sferzata per dare un po' di tono a un mercato in grande sofferenza. Ricordiamo che il tasso di disoccupazione dei giovani è oltre il 33% e la disoccupazione delle donne, o meglio la non occupazione delle donne, perché molte sono fuori anche dal mercato del lavoro, magari scoraggiate, assume un tasso molto più alto rispetto a quello della media, che è l'11% circa. L'incentivo come ha detto lei, Ministro, è una tantum. Un'assunzione, ci perdoni il gioco di parole, è per sempre. Perché è convinta che possa funzionare? Beh, le imprese, io sento dire che pensano che il lavoro è costoso, che anche i contratti a tempo determinato sono costosi. Noi li abbiamo resi anche un po' più tali in una logica di assicurazione contro la disoccupazione, perché è un fatto che chi passa da un contratto a tempo determinato a un altro ha una maggiore probabilità di essere disoccupato, e quindi quell'1,4% in più che si deve pagare per l'assicurazione contro la disoccupazione viene in qualche modo a essere neutralizzato anche sui contratti a tempo determinato da questo bonus che diamo. Quindi è veramente, il senso è una sferzata. Noi pensiamo, siccome qui non si fa distinzione tra datori di lavoro, ovviamente c'è un numero limitato che può essere utilizzato da parte di un singolo datore di lavoro, adesso scriveremo le modalità attuative, ma il tutto deve essere fatto nei prossimi giorni, e quindi diciamo che è un tonico per un mercato che è in gravi difficoltà in questi mesi. Dopodiché noi pensiamo che la riforma possa aiutare anche il mercato del lavoro a riprendersi, perché la riforma è ispirata a relazioni di lavoro che sorreggono la produttività del lavoro e quindi vanno nella direzione della crescita. Chiarissimo, Ministro. Qualche altra domanda a volo d'uccello, perché sappiamo che deve prendere un aereo e sì, quindi può rimanere e poco. Lei mi diceva delle start-up. A proposito, sì, delle start-up, noi abbiamo, c'è un bisogno di impresa in questo paese. L'impresa startup non è soltanto un'impresa nuova, è un'impresa nuova col carattere fortemente innovativo e fortemente tecnologico. A questa impresa noi abbiamo voluto dare una maggiore elasticità in termini di lavoro, senza peraltro, e lo voglio dire in maniera chiara, senza peraltro portare alcuna lacerazione rispetto alla riforma del mercato che abbiamo approvato. Il che significa che la startup è tale per 4 anni, e noi abbiamo detto che l'essere una startup, cioè un'impresa in quelle condizioni, vuol dire che ciò giustifica automaticamente il ricorso a un contratto a tempo determinato per questa lunghezza, cioè abbiamo detto fino a 3 anni, rinnovabile per 1, che è esattamente l'orizzonte della startup, e cioè 4 anni, quindi è in linea con la riforma, senza nessuna lacerazione, con un po' di flessibilità in più per un'impresa che deve essere, che ovviamente sconta l'incertezza, ma che deve essere fortemente innovativa e vorrei dire anche giovane. Oggi il ministro Grilli ha firmato il decreto per i primi 55.000, per 55.000 esodati. Lo ricordiamo, sono i lavoratori che sono usciti dal mercato del lavoro e che per le nuove regole pensionistiche non possono andare in pensione. Lei ha detto che queste sono le premesse per salvaguardare 120.000 persone. In che modo? Perché lei dice siamo disponibili a soluzioni che siano ispirate all'equità e al buonsenso. Qui il modo è molto semplice, perché per queste 120.000 persone, le 65 del primo decreto che sta adesso attuandosi e le 55.000 di questo nuovo decreto che oggi è stato licenziato dal Ministro dell'Economia, noi abbiamo 120.000 persone che potranno andare in pensione secondo i requisiti precedenti la nostra riforma. Quindi qui la salvaguardia è chiara, è quello che verrà dopo che richiede, che magari va oltre il periodo del 2014 e richiede intanto una selezione basata su criteri di equità. Perché ricordo, qui bisogna distinguere tra gente che il lavoro proprio non ce l'ha più e invece qualcuno che il lavoro ce l'ha ancora e magari può continuare a lavorare, ma distinguere vuol dire farlo proprio sulla base di un criterio di equità.

diminuzione del lavoro e l'inutilità, la duplicazione di alcuni posti di lavoro rispetto a cose che l'elettronica evidentemente può fare meglio. Prego. È proprio così, Simone. Un'agenda digitale serve ad aumentare la produttività del lavoro, non a garantire posti di lavoro inutili. L'esatto contrario, serve a liberare risorse che vanno quindi rimesse sul mercato, no? Non dico licenziate, per carità, però certamente rimesse sul mercato, rimesse, diciamo, nel circolo della pubblica amministrazione. E se proprio sono inutili, mi spiace dirlo, ma ovviamente io non pago le tasse per mantenere un lavoro inutile, io pago le tasse per avere dei servizi. Peraltro, siccome l'agenda digitale prevede anche una componente importante sulle start-up, fammi dire una cosa che si riaggancia all'intervento del ministro Fornero. Purtroppo il governo con una mano dà e con l'altra toglie, perché ricordo che ha aumentato il cuneo fiscale, ha reso più costoso il lavoro precario, tra virgolette, quindi temporaneo, tipico delle start-up, ha aumentato i costi per il trattamento dei fine rapporto proprio per le start-up, e quindi purtroppo la riforma del lavoro ha irrigidito il mercato del lavoro esattamente su quel segmento di imprese che adesso si vuole andare ad aiutare. Questo introduce un po' delle distorsioni e delle contraddizioni. Detto questo, il quadro purtroppo non è buono. La verità è che fare agenda digitale vuol dire intervenire sulla produttività del lavoro, sia pubblico sia privato. Ecco, la parola produttività, caro Simone, purtroppo è la grande assente. Ultima domanda, anche qua, molto brutale. Quindi, per fare un'agenda digitale seria bisognava prevedere, accanto a questi interventi sulla pubblica amministrazione, questa è l'opinione, mi sembra di aver capito, anche dei tagli ai dipendenti sostanzialmente? Sì, bisognava prevedere, come in ogni azienda, che i processi digitali sostituiscano processi analogici e quindi fisici, quindi liberino lavoro, quindi riducano il costo per lo Stato. A quel punto quei risparmi possono essere investiti o rilasciati sotto forma di minor cuneo fiscale, dando spazio alle start-up. Invece il governo ha scelto di non dire nessun numero sui risparmi di lavoro, quindi sui guadagni di produttività. Ecco, questa reticenza va colmata, altrimenti incalzeremo il governo perché questi numeri li tiri fuori. Le 17 e 47 minuti è il momento della borsa. Eleonora Micheli, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. In grande spolvero questo venerdì di mercati. Sì, tra l'altro questa mattina erano emerse una serie di notizie poco confortanti sull'economia del vecchio continente, a partire dal dato sulla produzione industriale spagnola, che è calato ad agosto oltre le attese, o come gli ordini all'industria tedesca, che sono peggiorati sempre ad agosto. Ma le borse europee già si attendevano il dato del primo pomeriggio sull'occupazione americana, probabilmente. Infatti a sorpresa è stato reso noto che è sceso il tasso di disoccupazione al minimo dal gennaio 2009, ovvero al 7,8%. Sì, i posti di lavoro creati, come si diceva, non è che siano tantissimi, tant'è vero che Wall Street poi non è che reagisca così bene, eh? Più 0,38% il Dow Jones, più 0,16% il Nasdaq, mentre lo Standard & Poor's 500 guadagna lo 0,33%. Comunque, tutto bene in Europa e così ce la prendiamo. Il titolo migliore sul listino oggi sul FTSE MIB, Parmalat, più 4,17%. Sì, infatti su Parmalat sono iniziate a circolare tutta una serie di ipotesi, a seguito soprattutto delle critiche che sono state rivolte all'Actalis negli ultimi giorni. E così anche alcuni analisti hanno iniziato a far circolare studi dove iniziano a ipotizzare che la stessa Lactalis possa effettuare un delisting della società, così che debba aver meno a che fare con le istituzioni e possa avere più mano libera nelle proprie operazioni. Del resto, appunto, un delisting costerebbe 600 milioni alla società francese, che ne ha già pagati l'anno scorso 3,7 miliardi. Bene, complessivamente tutto il settore bancario. La Popolare Emilia Romagna guadagna il 3,88%, Unicredit il 3,7%, il Monte dei Paschi il 3,4%, la Popolare di Milano il 3,38%, Intesa San Paolo il 3,26%, il Banco Popolare il 2,97%. C'è un motivo particolare per il quale Telecom Italia sale del 3,8, Eleonora? Ma in questo caso è un recupero, poi si scommette molto anche sul piano che si sta prospettando all'orizzonte di alleanze con altre società per la fibra e poi eventualmente anche dello scorporo della rete e di un eventuale ingresso della Cassa Depositi e Prestiti. Di sicuro per ora sono tutte ipotesi, ma sembra che qualcosa stia bollendo in pentola e conseguentemente il mercato ci scommette. Tra i non bancari, tra i migliori, c'è anche ST Microelectronics, un guadagno del 3,3%, Benefa Exor più 2,92%, Atlantia più 2,80%, Generali più 2,76%, Ferragama più 2,7%, nel Green Power più 2,71%. Chi non è andato, vi do anche Enel ed Eni più 2,33%, più 2,29%, chi non è andato tanto bene oggi, seppur in positivo, è Fiat più 0,77%. La sono le indiscrezioni su Opel, immagino. Eh sì, l'indiscrezione in particolare del Sole 24 Ore, che riferisce che Fiat starebbe studiando il dossier per un'eventuale acquisizione di Opel dal gruppo General Motors. Ovviamente questo dovrebbe superare una serie di ostacoli, a partire dal fatto che General Motors dovrebbe rescindere i propri accordi con la francese Peugeot. Ovviamente è tutto da vedere, d'altra parte il mercato già sta mettendo in conto che l'operazione peserebbe su Fiat, soprattutto perché comporterebbe una sovracapacità produttiva in Europa, un mercato che ben sappiamo non va alla grande nel settore dell'auto. A proposito di Fiat Industrial, invece, più 1,79%? Anche in questo caso Fiat Industrial ha fatto peggio del mercato, e da ieri che si comporta peggio sulle indiscrezioni che possa slittare la fusione con l'americana CNH. Gli unici due titoli negativi sul FTSE MIB oggi sono Lottomatica, in calo di 0,5%, e Mediaset giù del 2,45%. Come mai? Sì, Mediaset è da questa mattina che va male, diciamo c'è uno studio che circola di PricewaterhouseCoopers dove si dice che il mercato della raccolta pubblicitaria non andrà bene fino alla prossima metà dell'anno ventura, al giugno del 2013. Bisogna aspettare il giugno del 2013 per avere una ripresa, e quindi questo impatta negativamente su una società che sappiamo vive soprattutto di pubblicità. Come se non bastasse, gli analisti di un'importante banca d'affari UBS hanno lanciato l'allarme sulla controllata Mediaset Spagna, che probabilmente è sopravvalutata a questi livelli di prezzo, almeno secondo gli esperti, visto che ha corso molto negli ultimi mesi, ma di fatto anche in questo caso soffre per l'andamento del mercato pubblicitario. RCS, abbiamo parlato di mercato pubblicitario, abbiamo parlato di editoria, RCS però va bene oggi invece. Sì, RCS è stata in spolvero, come dicono gli operatori, è stata ben comprata per tutta la seduta, poi ha chiuso in progresso del 4%, ieri sera alla trasmissione di La 7, 8 e mezzo, Diego Della Valle ha detto che al momento opportuno accrescerò ancora il mio investimento, che ricordiamo è superiore all'8%, ovviamente questo è piaciuto molto alla borsa, che sta scommettendo su nuovi rialzi. Poi ricordiamo comunque che di titoli RCS in circolazione ormai sono sempre meno, il 2,8% è stato anche acquisito da Alessandro Proto e da appunto dei suoi soci. Grazie ad Eleonora Micheli di Radio Cor Il Sole 24 Ore, e grazie come sempre ai colleghi della redazione di Radio Cor per gli aggiornamenti di borsa. Buonasera Eleonora. Buonasera. Allora, prima di chiudere, qualche sms è arrivato, innanzitutto uno di spiegazione, ci chiedete, spiegate che cos'è l'agenda digitale. L'agenda digitale è, almeno teoricamente, poi può prendere configurazioni diverse, però è più o meno quello che avete visto ieri approvato dal Consiglio dei Ministri, ossia una serie di provvedimenti, una serie di norme inserite all'interno di un decreto che servono, o all'interno di un provvedimento di legge, che servono sostanzialmente all'incremento dell'utilizzo del digitale nel nostro paese. Tra l'altro ci sono anche stanziamenti per la banda larga all'interno del provvedimento, 150 milioni di euro per quanto riguarda il centro nord, oltre ai 600 già stanziati per il mezzogiorno, e poi ci sono tutte le norme di cui abbiamo detto, tra carta d'identità elettronica e quant'altro. ci dite a proposito dell'intervista al ministro Fornero, insomma, forse una domanda che dovevamo girare a lei, però insomma, ci sentiamo in parte interpretare. Se è convinta che le multinazionali non investono in Italia a causa dell'articolo 18, ci sono anche motivi di legalità, costo dell'energia, eccetera. Chiaramente le multinazionali non investono in Italia solamente per questioni che riguardano il mercato del lavoro, ma non investono anche per quei motivi. La vicenda Alcoa mi sembra esemplare da questo punto di vista. Le 18 e 8 minuti, di nuovo buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. A Davide che ci scrive al 349-238-6666 che Wall Street ai massimi dal 2007, altro che reagisce male. Diciamo che non abbiamo detto che reagisce male, abbiamo detto semplicemente che non reagisce nella stessa maniera brillante nella quale hanno reagito le altre piazze finanziarie, soprattutto quelle europee. Considerate che il Dow Jones guadagna lo 0,36% in questo momento, il Nasdaq sta scendendo dello 0,01% e l'euforia delle borse europee in realtà era dovuta prevalentemente, tra l'altro, ad un dato sulla disoccupazione americana positivo. Noi adesso apriamo questa seconda parte della trasmissione parlando ancora una volta, insomma, di costi della politica, ma non solo, dello Stato che a volte più di a volte tende ad opprimere, e lo facciamo anche se non c'è il titolare della trasmissione, come sempre, Corrino Gaetano. Abbassare tre più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, superpensioni, tre che più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, tre che più. Iniziamo per dire come funzionano certi meccanismi e per il momento usciamo dall'ambito delle regioni. Come funzionano certi meccanismi, come funziona questo paese folle. Allora, Antonio, ragazzino di 12 anni, di Fasano, siamo nel Brindisino, ha un debito di 1138,77 euro con Equitalia. 12 anni, eh? E perché? Perché non ha pagato la tassa di possesso di un'auto nel 1997, cioè 3 anni prima che nascesse. Beh, notizia riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Il padre del ragazzo si è rivolto ad un commercialista. Costui ha scoperto che la sanzione è riferita ad una vecchia Renault 9 del 1985 che nessuno della famiglia ha mai posseduto. Ed Equitalia non vuole riconoscere l'errore, scusate, mi viene da ridere davvero, insomma. La sanzione va pagata, secondo la società di riscossione tributi, ma il padre di Antonio è altrettanto intenzionato, naturalmente, ad opporsi con tutti i mezzi legali. Altra storia, e qua veniamo alle nostre mitiche e amate regioni. Il sottosegretario regionale, storia raccontata dal Corriere della Sera, altra storia pazzesca. Alberto Sarra, consigliere regionale della Calabria, o ex per essere preciso, ha un vitalizio di invalidità di 7.490,33 euro al mese. Vitalizio di invalidità 10 volte più alto di quello dei portatori di handicap, quando ci arrivano, tra l'altro. E poi c'ha l'indennità come sottosegretario regionale, nonostante risulti disabile al 100%. Che cosa gli è successo? Racconta il Corriere della Sera, che ha avuto uno shock emorragico e fin qua, insomma, naturalmente ci dispiace, salvato grazie ad un intervento chirurgico. E il Corriere ha scavato nell'archivio dell'ANSA 156 dispacci. Lui che incontra i presidenti delle comunità montane, lui che presiede conferenze dei servizi sulle frane, lui che inaugura nuove strade, lui che si occupa dei consorzi industriali, lui che riceve l'ambasciatrice cubana in Italia, lui che cerca di risolvere il nodo dei forestali. Disabile al 100%. E con un vitalizio di invalidità da 7.500 euro. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha riconosciuto al sottosegretario l'inabilità totale e permanente al lavoro. E poi ancora gli sono stati riconosciuti arretrati per un totale di 30 mesi, pari a circa 225.000 euro dal momento nel quale sostanzialmente ha avuto l'incidente. Fa notare giustamente il Corriere della Sera che l'Italia è un paese dove dal 2008 al 2013 il fondo per le politiche sociali è precipitato da 929 milioni di euro a 44,6. Infine, altra storia che a questo punto sulla quale vogliamo ritornare è la vicenda, a proposito di disabili, del presidente dell'ALER, l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale di Lecco, Antonio Piazza, che, come sapete, ha tagliato le gomme dell'auto ad un disabile che, intenzionato a parcheggiare, aveva trovato il posto auto occupato dalla Jaguar di Piazza. Il disabile chiamò i vigili perché multassero l'automobilista e Piazza, per vendicarsi, quando gli agenti se ne sono andati, ha bucato le gomme della vettura, ma è stato ripreso dalle telecamere. La storia ve l'abbiamo già raccontata. Quello che volevamo far notare è, per dare la misura poi di tutto quello che succede, è che la storia è stata ripresa con tanto di particolari sugli scandali delle regioni italiane da Time, dal magazine Time, e dal Guardian in Inghilterra. Poi non si dica che queste cose rimangano nei nostri confini nazionali, vanno fuori e la figuraccia ce la facciamo tutti. Allora, proprio a proposito di questo ha parlato il presidente del Consiglio Monti, anche di questo, e di questo sta parlando in questi minuti il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Le 18, 16 minuti e 28 secondi, mentre vi stiamo parlando il Tesoro sta diffondendo i dati sull'evasione fiscale. In cassa ci sono 12,7 miliardi per il contrasto all'evasione avvenuto nel 2011, un incremento del 15,5% rispetto all'anno precedente. Il maggior numero di evasori totali sono quelli relativi ad alberghi e ristoranti, 29% dei casi al commercio e all'ingrosso al dettaglio, più 20%. Da imprese e grandi contribuenti il 2% dei controlli ha riguardato i grandi contribuenti e le imprese di medie dimensioni. La maggiore imposta accertata è pari a 13,3 miliardi di euro, rappresenta il 44% del totale. E poi i controlli fiscali, ci scrive il Tesoro, non sbagliano un colpo. Sono positivi al 100%, in media al 95%, chissà come mai. Adesso però andiamo a sentire che cosa è successo ieri. Ieri il Consiglio dei Ministri, oltre ad approvare la cosiddetta agenda digitale della quale abbiamo già parlato, ha approvato dei provvedimenti importanti per quanto riguarda i contenimenti dei costi della politica e soprattutto i tagli alle regioni. Tra i tanti, per esempio, uno degli elementi più scandalosi era quello dei vitalizi. Come sapete, nel Lazio era previsto un vitalizio a partire dai 50 anni di età, avendo fatto nemmeno una legislatura intera. Ebbene, il limite è stato portato giustamente a 66 anni, con almeno 10 anni di attività politica. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dice che i tanti fenomeni di degrado del costume e di scivolamento nell'illegalità provocano un fuorviante rifiuto della politica, lo ha detto proprio poco fa, e le immagini, certe immagini, sono inqualificabili, dice Monti. Noi siamo impegnati, ministro Grilli, io, altri membri del governo, tutto il governo nel suo insieme, far crescere il rispetto per l'Italia, l'immagine dell'Italia. È un lavoro che richiede il sacrificio dei cittadini italiani, che hanno dimostrato grande maturità nel comprendere questa esigenza. È un lavoro che richiede una grande presenza nelle sedi internazionali e in altri paesi per spiegare che l'Italia non corrisponde ai pregiudizi che spesso vengono erroneamente nutriti sull'Italia. Ma potete immaginare, possiamo immaginare quale effetto può avere sulla percezione del nostro paese quando si verificano episodi più o meno clamorosi di evasioni fiscali, di corruzione o di festini inqualificabili come quelli di cui è emersa traccia nei tempi più recenti. Che cosa vogliamo che pensi il cittadino di un altro paese che vede scorrere le immagini di queste cose? Il danno arrecato all'Italia è veramente incalcolabile. Così Monti, ci scusiamo per l'audio che non era eccellente, brevemente: ci saranno redditi, case e auto online per tutti gli assessori. I contributi ai monogruppi, ai gruppi composti da una sola persona, saranno erogati solo se questi saranno quelli che risultano così composti dall'esito delle elezioni. Quindi uno che è stato eletto in una sola lista fa il gruppo da solo. Obbligo di rendiconto per i gruppi consiliari regionali, 6 mesi di tempo alle regioni per adeguarsi. Ci sono sanzioni, c'è il taglio dei trasferimenti dello Stato, tra le altre cose. E anche un tetto ai gettoni di presenza, 30 euro, e poi una riduzione del 10% dei compensi, appunto, che spettano i vertici degli organi di direzione e controllo, al taglio dei componenti dei CDA, insomma, c'è molta roba. Adesso però, prima di chiudere, abbiamo ancora pochi minuti, tocchiamo il tema della Grecia. Oggi ha fatto molto discutere un'intervista del premier greco Samaras, il quale dice, insomma, abbiamo soldi solamente fino a novembre. E c'è una nuova trattativa tra il governo e la Troica sui tagli. Saluto Vittorio Darold del Sole 24 Ore, buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Inviato tra l'altro a Malta, dove c'è una riunione importante su questi temi, tra l'altro è presente anche il Presidente del Consiglio Monti, che ha detto che i paesi europei devono impegnarsi in un'azione molto forte e determinata a casa per completare gli sforzi. L'impressione, Vittorio, che con la Grecia siamo punto e da capo. Sì, esattamente. Samaras ha detto che il rischio non è più tanto la tenuta economica del paese, che ha ricevuto, lo ricordiamo, 2 piani di salvataggio, il primo da 110 miliardi e il secondo da 130, ma ancora non basta, perché ci sono appunto delle differenze di appena 2 miliardi tra le richieste della Troica, che chiede appunto a ulteriori tagli per il biennio 2013-14 per circa 13,5 miliardi e i partiti al governo che ne hanno racimolati finora solo fino a 11,5. Ma il vero problema che Samaras ha posto all'attenzione dei tedeschi, soprattutto perché il paragone che ha fatto è diretto all'opinione pubblica tedesca, è che a tenere ormai non è più quella economica ma la questione della democrazia. Cioè lo Stato greco è in gravissime difficoltà, non avrebbe più soldi fino a novembre e quindi c'è un problema ormai di tenuta democratica. Sì, ma Vittorio, molto, molto banalmente, perché tu conosci il paese ormai bene perché lo frequenti per lavoro da tempo, ti sei seguito tutta la crisi, ma questo paese è in grado di reggere un'altra ondata di austerità, francamente? Guarda, il vero problema è che ormai i greci sono arrivati, diciamo così, all'ultimo buco che si può fare nella cinghia. Non hanno altre possibilità perché, come tu sai, le due motori economici del paese finora sono la cantieristica, il navale, il marittimo e il turismo. Questi due sono tutti e due in crisi in questo momento. Il turismo quest'anno è andato diciamo, male, meno bene del solito, perché molte persone non si sono avvicinate alla Grecia per timore appunto di scioperi o comunque di movimenti di piazza, e la cantieristica e il navale, perché la crisi economica naturalmente riduce i noleggi e anche la costruzione di nuove navi. Ieri ci sono stati scontri durissimi di operai dei cantieri navali appunto di Atene, che hanno provocato 106 fermi di polizia, quindi c'è stato veramente una specie di piccola, diciamo così, movimento di piazza, una situazione veramente complicata. Quindi Samarassa fa bene a mettere il punto. E poi c'è la notizia che la Merkel, che non è certo la persona più popolare in Grecia, arriverà martedì ad Atene per rassicurare l'alleato appunto Samaras, che la Germania non lo abbandona. Immagino Vittorio ci sia un filo di preoccupazione anche per la sicurezza da questo lato, no? Sì, perché come tu sai il cancelliere Merkel non è la persona appunto più amata in Grecia, perché viene comunque ritenuta la persona che in qualche modo è la causa di queste misure di austerità, anche se in realtà bisognerebbe distinguere, perché il cancelliere all'interno della sua coalizione sta cercando di tenere sotto controllo i cosiddetti falchi, che sono la CSU della Baviera e il Partito Liberale. Quindi la Merkel in realtà sta cercando di dare una mano al conservatore Samaras, che fa parte dello stesso Partito Popolare in Europa, ma questi distinguo interni naturalmente ad Atene non sono molto seguiti. Tieni conto che qui a Malta si discuterà anche della situazione greca, si discuterà appunto con Monti, Rajoy, il presidente francese Hollande e il premier portoghese, anche proprio di questo. C'è anche Barroso, che si è unito appunto, e il primo ministro maltese. Insomma, si stanno cercando di verificare come affrontare la crisi del debito sovrano, soprattutto appunto con questo aggravio, questa situazione difficile della Grecia, che sembra non farcela, mancano 20 miliardi di nuovi aiuti, e con ancora l'incertezza spagnola, che non ha ancora deciso appunto se fare un aiuto appunto basato soltanto per aiutare le banche, oppure qualcosa di più, e quindi in qualche modo chiedere un aiuto, seppur leggero, ma più ampio e quindi più strutturato. Sì. Di questo si sta parlando. È tutto collegato ormai. La riforma dei trattati europei, la riforma del controllo della sorveglianza bancaria, la BCE che ha messo sul piatto gli acquisti di bond, e la tenuta anche ormai sociale di partiti di paesi come la Grecia, che sono, lo ricordiamo, al sesto anno di recessione. Grazie a Vittorio Darold del Sole 24 Ore, inviato a Malta, e buonasera. Buonasera a voi. Ora, prima di chiudere, un paio di segnalazioni. Bene, vi abbiamo parlato molto e continuiamo a parlarvene ogni giorno di tutti gli sprechi delle regioni, degli sprechi della politica. C'è chi in tutto questo soffre, ve l'abbiamo raccontato fin da aprile scorso, con Disperati Mai, piccoli e medi imprenditori che abbiamo invitato a raccontare su Radio 24 le loro difficoltà e i loro sentimenti davanti alla crisi. Sono arrivate centinaia e centinaia di lettere che parlano di sconfitte, di cadute, di vittorie, di persone che sono riuscite a rialzare la testa. Disperati Mai diventa un film grazie alla collaborazione con il Festival delle Lettere di Milano e il London Short Film Festival. 5 di queste lettere sono diventate cortometraggi. I video saranno presentati in anteprima giovedì 11 ottobre alle 18:30 presso l'auditorium del gruppo Sole 24 Ore, qua in via Monterosa al 91 a Milano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L'ultima segnalazione vi volevo fare: abbiamo ospitato il ministro Fornero in apertura, che gli esperti del lavoro discuteranno proprio la riforma Fornero qua nella sede del Sole 24 Ore il prossimo ottobre alle 9 con Tutto Lavoro. Ed è tutto, grazie a Barbara Bianchi in redazione, Paolo Corleone in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia e buona serata. Radio 24, la passione si sente.